E ora. Legge tasso. Abbiamo bisogno della censura. Censura per impedire alla radio di continuare a rigurgitare quel suo vomito ininterrotto. Censura per la stampa libera, creatrice di quella visione immaginifica del mondo, che è la base intellettuale per lo sterminio di massa. Censura per i libri, rozzi memoir, scritti da ghostwriter, di politici e celebrità, gente che dovrebbe marcire in carcere anziché stare in giro a tenere conferenze. Censura per l'industria cinematografica, che sforna puerile apologia imperialista e pornografia pro-tortura. Censura per l'arte, che col suo speciale statuto di immunità spiega e giustifica questa ideologia degenerata che rende possibile cotanta libertà. Tra tutti i sistemi che necessitano di essere soppressi e purgati, è bene cominciare proprio dall'arte. L'arte è il cardine, all'apparenza insignificante. La libertà di espressione creativa è un depistaggio, una copertura, uno stratagemma, un'operazione sotto falsa bandiera. Sostenere l'inalienabile diritto dell'arte a essere, dire e fare qualsiasi cosa, è un trucchetto ordito dai signori del capitale, che ha implicazioni assurde e insidiose. È così che l'arte, al posto di essere uno scudo, un'arma, un manifesto politico impugnabile dai diseredati senza altre risorse, si è trasformato in una gloriosa fuffa, la cui salvaguardia è affidata agli scagnozzi di uno Stato militarizzato. Sostenuta da straprivilegiati, incoraggiata da debosciati cosmici, che senso ha difendere questa bestia? E cos'è diventata la bestia, a furia di farsela con loro? L'arte non è pura sensualità, né tantomeno è priva di scopi o conseguenze. L'arte sta in trincea, combatte per una visione, in maniera implicita o esplicita. E soprattutto, l'arte incita alla violenza. Se lo Stato si comporta come un boss malavitoso, annientando sistematicamente i suoi oppositori, Malcolm X, Mossadegh, Lumumba, Salvador Allende, Che Guevara, Gheddafi, Fred Hampton, Orlando Letelier, Oscar Romero, le suore di El Salvador, cifre mai rivelate in Vietnam, Guatemala, Honduras, Laos, Cambogia, Palestina, Afghanistan, Haiti, Nicaragua, Cuba, Angola, Iraq, eccetera, eccetera. Come dobbiamo interpretare il suo paternalistico abbraccio all'arte? Se il regime si accanisce contro i suoi nemici con tale vigore, come possono gli artisti non rendersi conto che questo potere indiscriminato li ingloba e, affronto finale, declasse la loro opera a vanità da pischelli? Se l'arte può cambiare il mondo, e può farlo, la dottrina della libertà di espressione non è forse il modo per confinarla in un gulag teoretico di assoluta impotenza e irrilevanza? Ci sono sempre stati dittatori, coi loro diktat su cosa fosse o non fosse accettabile nell'arte. Era un segno di rispetto nei confronti del ruolo dell'arte e dell'artista. Era l'ammissione che l'arte avesse una sua importanza, un significato, un potere, in rapporto a una consapevolezza internazionale e a dei sistemi ideologici. L'arte va oltre leader politici transitori, oltre la contingenza di un momento. Scavalca fluida i confini, senza bisogno di visti o permessi. Funge da elemento di coesione per le generazioni, da totem denso di significato, da ponte tra sfumature di fazioni opposte a beneficio di un'unione più vasta. L'arte consente alla politica di guadagnare la luna e non il dito. Offre visione, chiarezza e idealismo quando si è lì all'ambiccarsi con i dettagli. È per questo che si tratta di una sostanza pericolosa che ha bisogno di essere regolamentata a ogni costo. Eppure, per quanto rappresenti un pericolo per l'umanità, è anche una fonte di speranza. Ad esempio, se siamo convinti che il rock and roll abbia demolito l'URSS e il comunismo, come è sempre più modaiolo sostenere, allora perché non crediamo che il rock and roll o una forma d'arte simile possa demolire il capitalismo, ovvero un sistema ancora più devastato da contraddizioni, malcontento universale e folle diseguaglianza. L'arte e la cosiddetta espressività devono subire la minaccia della censura affinché ci siano i mezzi e la volontà di renderle più forti. Se l'arte vuole riguadagnarsi il proprio posto nel mondo, ha bisogno di sentire lo spettro dei manganelli e dell'oscuramento. Non un oscuramento passivo-aggressivo, come il boicottaggio di mercato che è imposto più o meno a qualsiasi artista. Quello è soltanto un travestimento codardo, messo in atto dalle classi dominanti, per i divieti ideologici. Si rifiutano di fare condanne esplicite. Ma noi li sfidiamo a dichiarare le loro prese di posizione, i loro pregiudizi e la censura ufficiale sui contenuti dei nostri dischi, dipinti, film, saggi, invece di continuare a ignorarli in questa maniera passivo-aggressiva, semplicemente schivandoli o relegandoli nel pattume di un purgatorio di spiantati. L'arte oggi è in stato confusionale, è nel caos totale, senza avere alcuna idea del perché esista, dove stia andando, a cosa serva e da dove provenga. La censura, nell'immediato, le offrirebbe una bussola, un significato, uno scopo, una direzione, restituendole così il suo potere. Un artista che si dichiari anticensura, di base sta sventolando bandiera bianca, sta affermando che il proprio lavoro è insignificante, uno sbuffo, uno scarabocchio, una patacca, un po'. La musica che passa in radio, pezzi pop, rock, rap o country, che promuovono la lotta di classe e celebrano l'idiozia, la sociopatia, l'immorale accumulo di ricchezza, la discriminazione e un demenziale spartizione dei ruoli. Rappresenta la voce di Wall Street. Dentro quella musica ci trovate esemplificati tutti i valori dei broker, a prescindere dal fascino della pop star di turno. Il motivo del suo passaggio in radio è quello di reificare i valori di una sadica struttura di potere. Le elite cercano di programmarvi, ingannarvi, ipnotizzarvi, controllarvi, considerandovi di loro proprietà, considerandovi le loro puttane, attraverso quei cantanti progressisti. Censurate, fate in modo che non possano più parlarvi. Lasciate strisciare tutta questa gente verso la fogna da dove è venuta. Al limite possono organizzare un secret show per la convention dei clienti Walmart, o di qualche altra ripugnante congrega di papponi che li ha eletti a diventare la voce vacua di un incessante lavaggio del cervello. Ma devono essere espulsi dalle onde radio, dai negozi di dischi, da internet, dal pubblico consumo. Censura per la radio. I videogame e i film creati dall'industria dell'intrattenimento devono essere censurati. Sono virus sguinzagliati dentro le menti di una nazione, ideati per causare una passività violenta e masturbatoria e per generare macchine della morte completamente asservite. La reazione liberale alla polemica sul fatto che l'ondata di ultraviolenza che si propaga dallo schermo allo sguardo e da lì al cervello possa essere distruttiva risponde alla seguente equazione elementare. Shakespeare è buono. Le opere di Shakespeare contengono violenza barbara. Quindi le descrizioni di violenza e brutalità del tutto gratuite non soltanto sono edificanti, ma intrinseche a un'arte realmente potente e parte integrante di una meravigliosa discendenza che risale alla culla della civiltà occidentale, i Greci. O in alternativa, Edipo Re era un individuo disturbato che ha ammazzato suo padre, ha scopato sua madre e poi si è accecato. Perché mai un videogame come Call of Duty, che addestra gli adolescenti a uccidere in maniera efficiente e indiscriminata, dovrebbe essere diverso da una rinomata tragedia greca? Gli scribacchini di Hollywood, incapaci di scrivere una storia decente con personaggi intensi, sfornano una violenza iperbolica che ha un effetto sedativo sul cervello. Sangue che sgorga, conflagrazioni esplosive, nulla ci viene risparmiato in questa smania di fabbricare le immagini e le situazioni più spregevoli. I produttori sono collusi con i rappresentanti dell'esercito, della marina, della DIA, della CIA. In soldoni, con la feccia dell'universo, si fanno dare milioni su milioni da queste istituzioni succhiatasse per raccontare storie a loro beneficio. Censurate Hollywood. Tenete il suo marciume lontano dagli schermi e i suoi tristi gigolò lontano dal red carpet. Lasciateli ai loro patetici rituali, ai casting coitali in omaggio a Louis Meyer, o agli orridi scambi di email, tributo al principito Jude Apatow. Meritano di essere censurati fino a che non impareranno a fare un film con dei contenuti stimolanti, invece di affidarsi a mixtape di vecchi spezzoni utili soltanto a innescare una reazione emotiva. Censurati i video e i film. Subito. Censura fino alla rieducazione. Censurate le notizie. Libertà di espressione, libertà di stampa e altre forme di libertà mediatica sono diventate la parodia grottesca e mortale delle loro stesse promesse, nel momento in cui sono gli interessi finanziari e l'ideologia del libero mercato a direzionare le loro opinioni, i loro report e le loro ricostruzioni in presa diretta. Giustificano la brutalità del loro sistema folle con un framework motivazionale che a distanza apparirebbe assurdo. Ma quella distanza non l'abbiamo. Siamo inondati, immersi, inceneriti dalle scorie che il loro monopolio della libera espressione ci scaglia contro dalla mattina alla sera. Un monopolio di cui godono gli individui più egoisti, più ricchi e quindi più grotteschi e meno compassionevoli che esistono. Non hanno limiti, sono impazziti, censurati. I giornali autorevoli, tipo il New York Times, pubblicano fantasmagoriche giustificazioni, atte a spiegare l'invasione dell'Iraq, un genocidio assurdo, e restano impuniti. Ma la stampa in fondo rimane libera. Libera di vomitare menzogne e creare una guerra a favore delle proprie aziende madri e dei sistemi ideologici per i quali prestano servizio. È così che si realizzano eventi apparentemente impossibili da scongiurare, mentre i giornalisti continuano a osservarli con amarezza e finta ingenuità, senza mai riconoscere il ruolo centrale che hanno avuto nel propugnarli, quello sterminio di massa. Se TV, radio, stampa e internet sono condizionati da manipolazioni, risposte e ire finanziarie, possiamo davvero credere nella libertà di questi mezzi? No. Occorre creare delle restrizioni morali su ciò che è consentito. Censurate la libertà di espressione. Subito. Censurate i politici. Funzionari eletti, completamente corrotti e venduti ai più putridi interessi economici. È gente che ha bisogno del bavaglio. Censurateli prima che sputino fuori qualche altra omelia chicce e paternalistica nei confronti delle famiglie operaie e della gente che ha votato per loro. Gli unici a cui sono davvero devoti sono i loro amichetti costruttori e i lobbisti puttanieri ai quali leccano il culo con tanto affetto. Censurateli e poi sbatteteli in galera. Censurate la tecnologia. Le innovazioni tecnologiche determinano in buona parte come si evolveranno l'arte, i media, la comunicazione e quindi più in generale la vita. Per preservare la possibilità stessa di esprimersi occorre che questi mezzi vengano imbrigliati. Si consente all'industria di inquinare il mondo attraverso il controllo del mercato. Basta che decida che qualcosa è paradigmatico. Perché lo permettiamo? Perché non esistono limiti per queste tecnologie trasformative, anche se molte di loro degradano la Terra e la nostra esperienza di vita. La televisione a schermo piatto trasforma qualsiasi spazio in uno schifo, con le partite e la pubblicità della birra lì ad aggredirvi. La musica, un tempo esperienza di condivisione, che univa la gente in maniera straordinaria e sublime, grazie all'avvento degli auricolari, è diventato un esperimento pornografico di controllo mentale. Casse minuscole, che trasmettono sparate sociopatiche in stile Iago, al fine di propugnare un'idea di mondo dove l'egoismo è d'obbligo e la psicosi assai incoraggiata. Sono sentimenti che causerebbero afflizione se solo fossero suonati ad alto volume. Facciamo rimbombare la verità. Censurate gli auricolari. Subito. Censurate internet. Internet è una chimera andata fuori controllo. Una dipendenza pervasiva e malata, peggio delle metanfetamine, dell'eroina o il crack, che ha reso un'intera popolazione passiva, fascista e del tutto cerebrolesa. Serve una riabilitazione da internet in tutto il mondo. Censurate internet subito. Si tratta di idee controverse, poco chic, e forse addirittura fastidiose da sentire. Dopotutto l'occidentale moderno vive un'esistenza spensierata, in buona parte apolitico, si concede di tanto in tanto un cruccio rispetto alla violenza di Stato e al suo uso repressivo della forza. Sbuffa per il patrocinio di Stato accordato a terrore, tortura, guerra, aerea, invasione, incarcerazione di massa e sadomasochismo ecologico. La compressione dello spazio-tempo, così come del cosmo, calamità trasdimensionali, non gli suscitano grande interesse. Gli accordi segreti di un'elite sifilitica che sodomizza il globo, per acquietare le proprie perversioni, tutt'al più gli destano un'alzata di spalle. «Dovrei preoccuparmi?» si chiederebbero tutti in coro, se solo fossero abbastanza colti da leggere Mad Magazine. Da un punto di vista sociale, gli argomenti come quelli sopracitati denotano cattivo gusto. Sono interdetti sia nelle discussioni pubbliche che nelle riflessioni private. È roba esoterica, del tutto irrilevante in una vita in cui chiami Uber per andare a un appuntamento su Tinder e mangiarti un gelato con la prospettiva di fare sesso. Una simile idiozia metrosessuale non viene mai rovinata dall'impegno politico, a meno che non si tratti di quella varietà che trova una sua funzione sui social, l'indignazione per le gaffe razziste di qualche politico, o il piacere semiotico di una qualche implicazione della nuova miniserie di culto. Questa indignazione, solitamente espressa online con un fremente ditino indice, in realtà un cruccio riguarda un comportamento sociale, pensata per mettere alla gogna ciò che è volgare o inopportuno. La sua analisi non si estende a una critica sistemica all'istituzione. All'istituzionalizzazione sociale. All'istituzionalizzazione dell'ineguaglianza e dell'orrore. Non è altro che autocompiacimento da condividere con una comunità virtuale, su quanto qualcun altro sia fuori di testa. La moderna giustizia sociale è il più delle volte una sorta di Emily Post, agghindata nella sua retorica da torre d'avorio. L'impegno politico, l'attivismo sono dunque rari, ma appena scattano, l'uomo occidentale è sempre pronto a cimentarsi in imprese eroiche a difesa di qualche valore sacro. Ci sono alcune libertà molto apprezzate e giudicate indispensabili per la piena realizzazione della civiltà. Una di queste è un'appassionata e sincera opposizione alla censura. Per gli americani e il loro primo emendamento, che garantisce un'assoluta libertà di parola, l'arte deve essere libera di dire qualsiasi cosa. Questo perché il mercato ci insegna che, a parte la possibilità di avere fama e denaro, l'arte, la musica e l'espressività non danno né significato né conseguenze, a parte generare altra arte e altre espressività. Sotto l'ideologia capitalista, in fondo, tutto è equivoco. La cultura, l'arte, lo stile e il pensiero non sono che dati da assorbire e rigurgitare in radio, in televisione o sulla sportina di una boutique. Il berretto di Che Guevara, il taglio di capelli di Himmler, la camicia da notte di Edgar Hoover sono tutte cose post-ideologiche, ridotte a oggetti di design in un melting pot di possibili profitti e bizze dei consumatori. Nel frattempo, la libertà di parola, la chiamano così, è considerata sacrosanta e non è lecito erigere barriere intorno all'arte, all'espressività e al libero flusso di informazioni. Infatti non c'è nulla che metta più agitazione nell'uomo occidentale che l'idea di veder compromessa la libertà di espressione. Ma da dove è venuta fuori l'idea che la gente sia libera di dire quello che le pare? Ad esempio, si accetterebbero mai che uno sconosciuto durante una cena si mettesse a sbraitare oscenità da un altoparlante? O che si mettesse a insultare i propri amici e familiari con un megafono in nome della libertà di espressione? Se la società è una specie di tavolata, allora la radio, la TV, i media, le notizie, i politici, il mondo dell'arte, i settori tecnologici, gli imprenditori edili, il pensiero neoliberale, le forze armate, le squadre professioniste rappresentano quel temibile sconosciuto. Uno che prende per il culo, mente, provoca, incita alla violenza proprio lì, appena dietro il cestino del pane. La risposta standard è che esiste il principio di reciprocità e che quindi anche noi potremmo unirci alla conversazione o che chiunque può farlo. Si tratta di un'altra bugia. L'arte e l'espressività devono perorare la propria causa nel mercato, per creare qualcosa che non esista soltanto su macro scala. Se l'arte o la musica, i libri, i giornali, eccetera, non riescono a entrare in classifica, vuol dire che non valevano abbastanza. O almeno così recita il pensiero comune. Il mercato ha la sua parola. Fine della storia. Ma in effetti è il capitale a determinare il successo. Le hit si comprano, i blockbuster si comprano, e l'ufficio elettorale pure, le reti televisive, le riviste, i giornali, sono gli organi di partito delle super elite. Il finto mercato è già di fatto un tipo di censura, ma una censura che non possiamo controllare, che ci garantisce che l'arte e la società siano permeate da un messaggio razzista, militarizzato, idiota, imperialista e paternalistico. Ci serve una censura da parte della gente, una censura dal basso, una censura ribelle, una censura che non si basi sui dementi di uno Stato militarizzato e muscolare o sui circoletti esclusivi che lo governano. Ci serve una censura guerriglia, una censura che parta dalla gente. Vi sembra un'ambizione impossibile o esagerata? No, non è così. L'avanguardia ha sempre guidato le masse. Il gusto depravato della gente, sicuramente perverso e malato, è il prodotto della sua disaffezione all'arte, di una programmazione dall'alto e del potere di un controllo mentale fatto di guerra psicologica pubblicitaria. Ma si può riemergere dalla fogna, nello stesso modo in cui ci si è finiti. Bisogna cominciare la censura un passo alla volta, con un po' di organizzazione e di astuzia. Ce la possiamo fare. Censura fino alla rieducazione. Censura subito. Il popolo vuole la censura. Quel trollare sadico su internet, i discorsi pieni d'odio che riempiono la bocca dei più dementi, la massiccia popolarità della pornografia della peggior specie, sono tutti tentativi mal riposti di essere censurati, rimessi in riga, in castigo. Nel vuoto esistenziale creato dal dio denaro, qualsiasi punizione sembra più auspicabile di quello stupido purgatorio tra libertà e non libertà a cui siamo stati assegnati. Similmente l'arte, più di recente il rock and roll, è sempre alla ricerca di censura, aggrappandosi come può a ciò che le è consentito. Sono idee catalogate come stratagemmi di marketing o bluff infallibili che in realtà rappresentano nella sostanza un tentativo disperato. Il rock and roll è infastidito dal suo ruolo ufficiale, esempio di nulla, e ormai simbolo di una ribellione insensata atta a rinsaldare l'accumulazione capitalista e il totale controllo fascista. Ci si augura sempre che possa rappresentare qualcosa di più, che le sue gesta di ribellione possano essere autentiche, ma il mercato gli toglie ogni significato, rifiutandosi di censurare le sue perversioni, la sua politica o la sua puerilità. Con lo Stato pronto a difendere i suoi diritti, un rocker è ridotto a niente. Al posto del censore, i gruppi musicali hanno creato essi stessi delle autoproscrizioni, nascondendo esoterismi illeciti all'interno dei loro prodotti. Di lì i simboli satanici nel design delle copertine dei dischi, i messaggi segreti incisi al contrario nei solchi del vinile, le star che si espongono pubblicamente con i loro sbotti violenti sul palco. Tutte cose che infrangono le regole della Commissione Federale per le Comunicazioni e assillano le autorità affinché proibiscano il diritto d'espressione. Ma non serve assolutamente a niente, perché il mercato conta solo se stesso e la propria singolare supremazia che spaccia per legge naturale, in opposizione a ogni costrutto ideologico o legislativo. Il suo sbadiglio è assordante. Questi artisti cercano nel posto sbagliato. Abbiamo bisogno di una nuova censura guerriglia che utilizzi gli strumenti più crudeli della rivoluzione: dolore, terrore, spietatezza assoluta. L'intento non deve essere placare l'ipocrita morale cristiana o un codice sociale demenziale, ma calpestare duramente il grottesco controllo mentale subliminale e i discorsi intrisi d'odio della cultura moderna, dei media, delle notizie, dei politici e dell'arte. Non può essere lo Stato il censore. Lo Stato deve a sua volta essere censurato, insieme ai suoi vili servitori e ai suoi orridi padroni. Censura, eliminazione, sradicamento e liquidazione. Censura fino alla rieducazione. Censurate lo Stato. Censura. Subito. Censura subito. Di Jans Venonius. A letto? Tasso. Brr, brr, brr.